L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio e bentornati all'altro pianeta. Non ci stanchiamo di dirlo, quello della sostenibilità, dello sviluppo intelligente, del rispetto per l'ambiente. Ovvero il nostro pianeta come solo in parte è, ma come potrebbe diventare se fossimo più attenti, più responsabili e anche un po' meno schizofrenici. Questa settimana, ad esempio, abbiamo assistito a un bel minuetto sugli incentivi alle rinnovabili, che tra l'altro in tempi di aumenti del prezzo del petrolio andrebbero tutt'altro che penalizzate. Abbiamo temuto sia per il fotovoltaico che per l'eolico. Ora l'emergenza sembra rientrata, almeno in parte, anche grazie alle pressioni delle associazioni e delle aziende, che ormai sono tante e molto specializzate. Basti dire che alla fiera EcoBuild di Londra, dedicata al design e all'edilizia ecocompatibile, la rappresentanza delle aziende italiane è passata da 16 dello scorso anno a più di 100. Anche perché il conto energia, che in Italia sta diventando un'idea dissennata, in Gran Bretagna arriverà quest'anno. Giuseppe Paoletti, segretario della Camera di Commercio Italiana a Londra. Nella manifestazione in generale, che conta più o meno 1200 espositori, c'è una grossissima maggioranza, c'è un grossissimo focus su tutte le produttori di inverter e pannelli solari, che prende più o meno quasi il 20% di tutta la superficie, diciamo, espositiva. E che quindi è ben rappresentata dall'Italia, altrimenti non sarebbe stata invitata, diciamo. Londra e Londra, Lodi e Lodi, c'è un'ovvia e sostanziale differenza, ma entrambe fanno parte di un'associazione detta Patto dei Sindaci, una campagna europea a cui i comuni aderiscono volontariamente con l'obiettivo di ridurre entro il 2020 le emissioni di CO2 del 20% e 14% su base pro capite rispetto alle emissioni dell'anno 2005. Come ci si impegna a lavorare? Per esempio nel settore residenziale e terziario con interventi di efficienza dei consumi elettrici e termici. Poi con interventi sulle infrastrutture e la mobilità urbana che spingano all'uso delle biciclette, dei veicoli a minore impatto, dei mezzi pubblici, del bike sharing, più in generale spingendo sulle energie rinnovabili. In questi settori si è impegnata Lodi, che quindi ha appena messo a punto un piano d'azione per l'energia sostenibile, che ora è sotto esame della Commissione europea. Tornato a Lodi, il piano dovrà ottenere l'ok del Consiglio Comunale per poi diventare realtà. L'assessore all'ambiente del comune di Lodi, Simone Uggetti. Siamo la seconda città d'Italia per piste ciclabili, siamo la seconda città d'Italia per solare termico, adesso speriamo di diventare anche la prima. Siamo tra i primi 10 per fotovoltaico. Abbiamo fatto tutta una serie di iniziative che evidentemente vanno in questa direzione. Le amministrazioni pubbliche possono essere uno stimolo potente, sia perché il pubblico rappresenta una parte non irrilevante dell'economia generale, sia perché con il proprio esempio possono portare istituzioni e cittadini a comportamenti più virtuosi che anche in questo caso coniugano economia e ecologia. Come dice Uggetti, tra gli impegni dei sindaci c'è anche quello di trasmettere ai cittadini una certa voglia di sostenibilità e rispetto ambientale. Di qui fiere, festival e incontri come Green Economy, economia fa rima con ecologia, in corso appunto a Lodi. Tra i prossimi appuntamenti segnaliamo l'11 marzo, Novamont si racconta. Sono gli inventori del Mater B, per intendersi, il materiale di cui sono fatti moltissimi sacchetti di plastica biodegradabile. Il 31 marzo poi si parlerà di case colabrodo, in senso energetico, con l'architetto Mario Cucinella. Tutto il programma lo reperite facilmente su internet. Oggi invece vi proponiamo qualche spunto della discussione sui lavori verdi, discussione partita dal libro curato da Marco Gisotti, giornalista ed esperto di comunicazione ambientale, e Tessa Gelisio, conduttrice televisiva. Si intitola per l'appunto Guida ai Green Jobs, sono 400 pagine, 16 euro, edizioni Ambiente. Iniziamo dall'autore, Marco Gisotti. In questo libro si trovano 100 percorsi professionali. Che cosa si può fare dopo lo studio, dopo la scuola superiore o dopo il liceo, le università, i corsi professionali, quali sono veramente le possibilità nel mercato del lavoro per ognuna di queste 100 figure professionali che noi descriviamo, e poi cerchiamo di capire all'interno di 21 settori industriali come si stanno sviluppando, si stanno evolvendo sia in Italia che all'estero, perché più si è capaci di lavorare in giro più si è competitivi. Che devono essere anche un percorso formativo che ti permette di lavorare adesso e non tra 20 anni, no? C'è anche questa indicazione nel libro. Assolutamente sì, noi diciamo raccontiamo le 100 professioni più importanti, alcune di queste con tutta onestà diciamo questa è una professione necessaria ma che oggi in Italia non ha mercato del lavoro, al contrario di altre diciamo queste hanno una possibilità praticamente immediata di impiego. Nel libro ci sono interviste a vari personaggi di riferimento per i diversi settori. Dice ad esempio Walter Ganapini, che fu anche chiamato a dirigere l'assessorato all'ambiente della regione Campania ai tempi della penultima crisi dei rifiuti e che è membro onorario del Comitato Scientifico dell'Agenzia Europea dell'Ambiente. Nel nostro paese la formazione di generici tecnici ambientali è avvenuta senza confrontarsi con le imprese. Mi auguro che in futuro vengano formati ingegneri progettisti in grado di disegnare siti produttivi a basso impatto ambientale e di massimizzare l'efficienza energetica degli impianti e delle strutture, in risposta alle reali esigenze delle nostre imprese. Abbiamo bisogno di produrre ingegneri per le energie pulite in Italia senza bisogno di dover spedire promettenti futuri professionisti a Barcellona, Londra, Rotterdam o Lund. Posto c'è, ma la specializzazione è tutto, ammette Gisotti. Nel mondo dei green job ci sono più buone notizie che non cattive. C'è un movimento proprio perché sono lavori ad alta specializzazione, sono lavori innovativi di cui c'è bisogno. Faccio un esempio, 13.000 persone oggi in Italia lavorano nel settore della chimica facendo ricerca. Perché? Perché nel settore privato c'è ancora chi fa ricerca. Anzi, molte imprese attraverso questo riescono a rimanere sul mercato e a crescere anche in tempi di crisi. Avvocati, climatologi, esperti di marketing, agronomi, chimici, ingegneri, architetti e anche i buffi, ma esistenti, ecoparrucchieri ed eco-chef. C'è un po' di tutto nell'elenco delle professioni verdi. Ce n'è anche una per gli amanti dell'azione e del pericolo. Dice infatti Sergio De Caprio, meglio noto come Capitano Ultimo, che comanda i NOE, il Nucleo Operativo Ambientale dei Carabinieri. Le attività d'ufficio sono praticamente inesistenti. Operiamo contro la criminalità ambientale organizzata e questo ci porta a lavorare per lo più fuori. È un fatto che le mafie siano sempre più interessate ad attività dal forte impatto ambientale. Spesso i trafficanti di rifiuti, gli speculatori edilizi e altri criminali ambientali sono parte organica delle strutture mafiose. Il nostro compito è impedire non solo che avvengano i reati, ma anche che queste attività criminose vengano gestite dalle mafie. La crisi c'è per tutti, sostiene Gisotti, ma il lavoratore verde ha competenze in più che possono non fargli perdere quota. Conferma il presidente di Confartigianato Lodi, Massimo Forlani, titolare della Forlani Impianti, impresa di impiantistica elettrica e industriale. Anni fa, racconta Forlani, se si andava a parlare di investimenti per il fotovoltaico o per le lampadine a risparmio energetico, ci si sentiva dire di no. Oggi invece è difficile sfondare, comunque molto più semplice di allora, perché il delta prezzo è diminuito e perché sono un po' più attenti al risparmio di gestione rispetto all'investimento puro. E diciamo quindi, che è un po' più facile in questo momento. Po' più facile, anche se comunque i benefici verranno in futuro, perché ovviamente non sono immediati. Sì, normalmente il break even degli impianti industriali è 5, 6, 7 anni, molte volte 3, mentre l'impianto dura anche 20-25 anni, però uno sta lì a guardare il suo posto e deve mettere a posto i numerini all'interno di 3 o 4 o 5 anni, quindi tante volte da un punto di vista dei numeri non ci si sta dietro. Ed ecco una giovane leva dei lavoratori specializzati verdi. Francesca Tonnina, ingegnere chimico, 25 anni, lavora alla Viscolube, vicino a Lodi, dove si riraffina un rifiuto pericoloso come l'olio usato per ottenere un prodotto di alta qualità da rimettere sul mercato. L'università tende a sensibilizzarci molto sull'argomento, quindi poter lavorare in una raffineria che in realtà ricicla è veramente la massima aspirazione. C'è proprio un occhio attento a tutto. Nelle fasi di manutenzione degli impianti siamo attentissimi a contenere qualsiasi tipo di emissione. Tutto, è tutto fatto nell'ottica del rispetto dell'ambiente e del territorio circostante, perché noi abbiamo un centro abitato vicinissimo, quindi dobbiamo essere veramente molto attenti. L'impegno ambientale delle aziende talvolta c'è, ma di rado è adeguatamente comunicato. Ne abbiamo parlato solo un paio di puntate fa con una ricerca dell'Economist. Stefania Maggi è la responsabile comunicazione di Viscolube. Innanzitutto bisogna partire bene, quindi incominciare a investire. Gli investimenti sono considerevoli, bisogna lavorarci molto e comunicarlo col territorio avendo tutte le carte in regola, perché una raffineria è comunque una raffineria. La comunicazione col territorio è costante, fatta di tante piccole cose, incontrare le scuole, comunicare sui giornali, bisogna lavorare su più fronti in contemporanea, perché non si finisce mai, ma neanche noi di migliorare, il miglioramento è continuo, gli investimenti sono continui, quindi è un processo che bisogna incominciare e non uscirne più. E già che c'eravamo, abbiamo colto l'occasione di scoprire se è green il job, ovvero il lavoro, di una casa editrice dedicata all'ambiente. Diego Tavazzi di Edizioni Ambiente. Storicamente Edizioni Ambiente ha sempre utilizzato carta riciclata, quindi già questo è un elemento di differenziazione rispetto alla media delle case editrici italiane. Tra l'altro l'anno scorso a Salone di Torino c'è stata una protesta di Greenpeace che segnalava gli editori che non utilizzavano carta riciclata. Ha avuto dei buoni risultati perché per esempio Feltrinelli adesso si è convertita all'uso della carta riciclata. Stiamo valutando l'adozione di carte e prodotte in maniera ancora più sostenibile, ancora più ecologica, quindi senza sbiancanti chimici. Stiamo valutando di passare a stampatori che alimentano i propri impianti con energia solare. Adesso dobbiamo valutare un attimo i costi, perché comunque c'è sempre anche un discorso industriale di costi e di ritorni. E poi ci sono le abitudini piccole in sede, per cui spegniamo i computer, stiamo attenti alle luci, utilizziamo solo acqua del rubinetto, insomma piccoli comportamenti quotidiani che però alla fine insomma danno un po' il clima, contribuiscono un po' al clima complessivo dell'azienda. Guida ai Green Job, Edizioni Ambiente di Marco Gisotti e Tessa Gelisio, il libro di cui abbiamo parlato oggi, ma adesso lasciamo Lodi e andiamo a Bologna, dove nei prossimi giorni si inaugura un altro festival. Il Green Social Festival, alla seconda edizione, dal 9 al 12 marzo. Tratta un po' tutti i temi che hanno a che vedere con la sostenibilità ambientale e sociale. E c'è molto caro e anche molto vicino. Ci saranno infatti Enzo Argante, che su Radio 24 conduce Ferry Boat, che a Bologna darà il via alla Città delle Regole. Una iniziativa per evidenziare e mettere a sistema coloro che in Italia, da diverse prospettive e in diversi ambiti, partecipano alla difesa e al rafforzamento dello Stato di diritto. Ci sarà anche Daniele Biacchessi, nostro vice caporedattore, con lo spettacolo Acque Mundi, l'11 marzo alla Libreria Ambasciatori di Via Orefici, accompagnato al pianoforte da Gaetano Liguori. In esclusiva e in anteprima, Daniele Biacchessi ci ha regalato l'incipit del suo spettacolo. Sapete quanti litri compongono un metro cubo d'acqua? Calma, non disperatevi, ve lo dico io. Un metro cubo d'acqua corrisponde a 1000 litri precisi. E sapete quanti metri cubi d'acqua consumano gli italiani ogni anno, ogni mese, ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, ogni secondo? E quanto consumano gli europei, gli abitanti dei paesi sviluppati e quelli che vivono nel mondo più povero? Allora, il 71% del pianeta è coperto dall'acqua, ma il 97,5% è salata e costa troppo renderla potabile. Resta dunque il 2,5%. Gran parte di quell'acqua è inglobata in ghiacciai, nevi perenni e nel sottosuolo. Pochissima si trova nei laghi e nei fiumi. A livello globale il 70% dell'acqua è utilizzato in agricoltura, il 20% in usi industriali, il 10% finisce nelle case e negli uffici. La disponibilità reale è dunque l'1% del totale dell'acqua dolce. Potrebbe bastare? Ma sì, potrebbe bastare. Potrebbe bastare se la distribuzione fosse omogenea. E invece il 64,4% delle risorse idriche mondiali si trova in 13 paesi. Pensate, il Brasile da solo ne possiede quasi il 15%. All'alto estremo della classifica troviamo un numero enorme di paesi con una disponibilità pro capite inferiore ai 1000 metri cubi l'anno. La differenza nei consumi d'acqua tra uno statunitense e un africano è spaventosa, abissale. 425 litri al giorno in America, 10 in Africa. E in Italia cosa accade? Per mangiare, lavare, far funzionare le fabbriche e irrigare i campi, gli italiani consumano 237 litri d'acqua al giorno. Un abitante del Madagascar ne usa soltanto 10 litri. In sostanza, voi italiani usate il doppio dell'acqua che usava il vostro bisnonno all'inizio del Novecento. E allora c'è un mondo grasso e un mondo magro, un mondo onnivoro e un mondo affamato, un mondo che ha tutto e un mondo che non ha nulla, un mondo che mangia tutti i giorni, beve tutti i giorni, consuma tutti i giorni, è un mondo che stenta a sopravvivere ed è pure assetato. Acque Mundi di Daniele Biacchessi debutterà il 9 marzo al Teatro dell'Elfo di Milano. L'altro pianeta. Bentornati all'altro pianeta. Nella prima parte del programma abbiamo parlato di green jobs, di lavori verdi. E proprio dai lavori verdi è partita Cristina Carpinelli in questa intervista a Margherita Bui. Può il mestiere dell'attore, se vissuto con consapevolezza, trasformarsi in un lavoro green? Uno parte da se stesso e cerca di sensibilizzare un figlio, persone che ti stanno vicini, insomma, in questo senso sì, in altri sensi no. Questo dell'ambiente è un tema che sente in maniera molto forte, cioè ci dedica del tempo, che so, alla raccolta differenziata, fa attenzione quando compra dei prodotti? Sì, certo, questo sì, questo fa parte della, insomma, della normale... delle cose normali che dovremmo fare tutti quanti, chiaramente. Faccio questo, cerco di rendermi conto di quanto siamo nocivi al nostro pianeta, quindi cerco di prendere meno possibile la macchina, cerco di fare le cose che posso fare a piedi, cerco di comprare delle cose, per esempio prodotti che vengono cosiddetti chilometri zero, nel senso che non fanno giri del mondo con gli aerei per arrivare alle nostre tavole, quindi cerco di comprare le cose nei mercati che dovrebbero diretti, che sono mercati bellissimi, che vendono cose che si coltivano vicino a casa. Cerco di non essere una persona, non sono una consumista, nel senso di sprecare le cose in modo compulsivo, eccessivo, per cui queste piccole cose che però forse sono alla base, diciamo, di un comportamento maturo nei confronti di questo problema, tutto qua, ma poi non faccio niente di particolare. Sì, non è estremista, però di fatto riesce ad avere una linea che poi è quella che si può sostenere vivendo in una grande città. Certo, no, sono molto... Vorrei fare delle cose che però sinceramente forse non riesco a fare, non mi organizzo per farle, per essere anche io promotrice, diciamo, di qualcosa che aiuti a sensibilizzare la gente in questo senso. Beh, lo sto facendo ora, ad esempio. No, adesso sì, però è un problema che ci riguarda in maniera troppo vicina, cioè non è una cosa, non è uno scherzo, per cui mi piacerebbe, insomma, anche cercare di, oltre a questa cosa, cercare di fare qualcosa in più, ecco. E penso che dovremmo farlo sicuramente tutti. È un problema che ci lasciamo sempre un po', come dire, prima o poi tanto qualcuno ci penserà, invece poi ci dobbiamo pensare noi per primi, insomma. No? Tempo fa, parlando con una ricercatrice, veniva fuori questo ruolo della donna, la donna all'interno della società come punto di forza proprio per lo sviluppo di una coscienza ambientalista, perché la donna poi incide all'interno della famiglia, ad esempio sui consumi, orienta soprattutto i consumi, può educare, sensibilizzare i propri figli. Certo, le donne, diciamo, che ancora sono quelle che più o meno si preoccupano della spesa, della casa, di quello che comprano, dei detersivi, tutte queste cose che comunque... E quindi, per esempio, io quando posso, per esempio, vado in questi negozi, diciamo, detti biologici, dove per esempio i detersivi te li ricarichi dentro una bottiglia di plastica senza ricomprarne altre, per esempio, no? Questo è fondamentale, per esempio, cioè se ognuno di noi avesse questa cura, fare questa cosa, già tutti la plastica eccetera che si consuma in casa e che si butta sarebbe già molto di meno, no? Certo. Anche per esempio spesso in questi supermercati più grandi, ed è chiaro che le donne si rendono conto perché vedono, io guardo mia figlia e dico, ma dove la lascio? Che sarà, no? No, il pensiero è automatico, nel senso che non la voglio lasciare in una montagna di plastica o di problemi legati all'ambiente così gravi, per cui cerco di anche lei anche con lei di andare a fare appunto la spesa in questi posti, cercare di fargli capire questo genere di cose che forse un uomo fa un po' meno, è così forse. La Repubblica, dice l'articolo 9 della Costituzione italiana, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Marco Carminati ci segnala il bene italiano da salvare di questa settimana. Buongiorno da Marco Carminati, abbiamo ancora con noi in collegamento oggi Marco Magnifico, vicepresidente del FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Buongiorno, dottor Magnifico. Buongiorno a voi. Eccoci qua, lei adesso ha sicuramente nel suo grande cilindro un'altra sorpresa, un'altra bellissima proprietà del FAI da sottoporci tra arte e natura. Dove ci accompagna oggi? Beh, vi porto in un orrido, vi porto in quello che è stato a fine 800 e fino prima del 900 uno dei luoghi magici del Grand Tour per tutta l'intelligenza europea e forse anche del mondo, e cioè Villa Gregoriana Tivoli, che è una specie di, appunto, come ho detto prima, di un enorme buco, perché a fine 1830 circa una piena della Niene si mangia mezza Tivoli e profonda, un sacco di morti, un disastro. Fatto sta però che il Papa decide in questa enorme voragine che mette in luce delle rocce straordinarie dominate dal Tempio di Vesta, che per fortuna non viene inghiottito dalla piena della Niene, fa una grande passeggiata per mettere insieme il senso così del divino, il senso del meraviglioso, del sublime, e quindi una passeggiata che entra sotto, che scende in questa voragine dell'inferno, dove ancora delle acque della Niene vengono con delle cascatelle eccetera, arrivano e vengono inghiottite in quella che è la Grotta delle Sirene, un posto di un fascino strepitoso. Ecco, siamo a Tivoli, non lontano da Roma. Come avete trovato questa proprietà e che cosa avete fatto per ripristinarla? Ma guardi, ci fu indicata da Luigi Spaventa, il celebre economista che ha una casa lì, che ci disse: guardate, lì è uno scandalo, uno schifo. Siamo andati e ho detto: ma no, è una cosa troppo grossa. Fatto sta che siamo andati e ce ne siamo innamorati, a partire dal demanio dello Stato, peregrinazione infinita tra questi uffici che non si capiva di chi fosse. Finalmente siamo riusciti a farcela dare in concessione dallo Stato e abbiamo cominciato a fare un restauro che è stato, devo dire, molto più difficile di quello che pensavamo. Prima di tutto perché una quantità di fognature di Tivoli buttava dentro in questa Villa Gregoriana, quindi più uno si addentrava in questo paradiso, più uno moriva dalla puzza immonda che buttavano le fognature. E poi dopo anche lì abbiamo trovato ogni genere di rifiuti, perché era la discarica di Tivoli. È stata un'opera difficilissima, perché si entra solamente a piedi in Villa Gregoriana, non può entrare nessun mezzo, però devo dire che da 3 anni a questa parte, o 4, l'abbiamo inaugurata, e ci sono 60.000 persone l'anno che percorrono questi sentieri sublimi, ripeto, e che portano anche alla cascata costruita sempre da Papa Gregorio XIV, che dopo la cascata delle Marmore è la più alta d'Italia. È veramente un luogo strepitoso. Insomma, dove arrivate voi, il paradiso viene ripristinato sulla terra, un paradiso in questo caso di arte, di natura e anche di un cataclisma che le ha creato. Come è un paradiso un po' infernale, come ecco, dire, ma è un posto straordinario. È un posto straordinario. E su questa meravigliosa proprietà immagino che non incomba nessun pericolo, o mi sbaglio? Beh, come sempre, i pericoli si annidano dappertutto. Il pericolo col quale stiamo combattendo in questi giorni è si chiama Cerambix cerdo, ed è un orribile verme che divora dall'interno i lecci. Allora gli ascoltatori si diranno, vabbè, ma insomma non mi sembra una cosa, no, è drammatico, perché siccome tutta Villa Gregoriana, soprattutto una delle due, dei due costoni, è un bosco di lecci, non si vede dove c'è questo cerambis. Un bel momento si staccano degli enormi rami che, se cadono in testa a un visitatore, non è divertente, per cui noi adesso dobbiamo operare una terribile lotta, oltretutto contro un animale, questa larva, che è protetto, per cui qui bisogna capire se vogliamo proteggere il cerambix che ci distrugge tutti i boschi, o se vogliamo proteggere i boschi che fanno di Villa Gregoriana un paradiso di natura ed arte. Quindi è veramente un problema, ecco, sono quei nemici annidiati siamo veramente un po' nei pasticci. Ecco, però insomma avete trovato tante volte la soluzione, voi del Fai non vi tirate indietro in quanto a battaglie, e qui però c'è in effetti un caso abbastanza singolare. Il problema è che costa un sacco di soldi, ecco. Perché il primo intervento per combattere questo cerambis cerdo ci costa 30-40 mila euro, e insomma 30-40 mila oggi non è che possiamo dire dove li trovi, e dove li trovi bisogna chiedere uno sponsor, però chiedere uno sponsor i soldi per uccidere una larva, ecco. Dice, ma che razza di domanda è? Insomma, questi sono i problemi di chi gestisce il patrimonio culturale italiano, ecco. Questo è uno degli aspetti così anche più appassionanti, anche se preoccupanti, del vostro lavoro, che dovete appunto occuparvi di mantenere queste proprietà, addirittura avendo anche dei nemici che si chiamano vermi dal nome difficile, vermi che tra l'altro godono di tutela, quindi insomma dei problemi notevoli che però appunto dovete affrontare, dovete finanziare. Perché sono problemi molto seri legati alla gestione di un posto aperto al pubblico. Insomma, grazie Marco Magnifico, perché lei ci ha fatto capire anche cosa significa lavorare in corpore vile, diciamo, per la tutela del patrimonio. La ringrazio molto, spero di averla presto con noi. Grazie, a presto. Grazie a voi. E saluto tutti cordialmente, naturalmente, gli ascoltatori. Con la segnalazione di Marco Carminati è tutto anche per questa settimana. Per riascoltarci c'è il sito radio24.it, c'è anche l'indirizzo email di questa trasmissione, ovvero l'altropianeta@radio24.it, oppure potete scrivermi direttamente laura.bettini@radio24.it. L'appuntamento è per la prossima settimana alla stessa ora.